Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris. Questa sera parliamo di un progetto nato per rispondere a una esigenza specifica dei non vedenti, ma che ha la potenzialità di divenire un supporto tecnologico utile per tutti. Un esempio, per la verità non sono moltissimi, di come certe volte la tecnologia possa diventare elemento di vera integrazione, andando oltre quella che è appunto la distinzione tra abilità e disabilità. L'oggetto di cui parliamo si chiama Tuteco, scritto T-O-O-T-E-K-O, così come la startup che è nata per svilupparlo a partire dall'idea originale nata allo UAV di Venezia nell'ambito della tesi di laurea di Serena Ruffato, che è in linea con noi. Buonasera Ruffato. Buonasera a tutti. Allora, a parte che credo voi vi siete aggiudicati una sequela, diciamo, di premi come startup, ci dica subito che cos'è questo Tuteco. Sì, allora, Tuteco è un anello intelligente, nel senso che è in grado di riconoscere all'interno di modelli tridimensionali dei sensori NFC, dei sensori che sono in grado di dialogare con un'applicazione per smartphone e fornire durante la esplorazione tattile, cioè mentre sta toccando l'opera d'arte, delle informazioni audio o video. Ok, cioè insomma io ho l'oggetto in pratica è una specie di anellone, esatto. Diciamo così, io lo infilo sul dito. Esatto. Questo anellone è sensibile a queste NFC che lei ha chiamato, che sono come dei francobollini, diciamo così, no? Dei microcircuiti. Sono quelli che troviamo nel badge della metro oppure nelle badge per le porte dell'hotel, che mi permettono, diciamo, a corto raggio di scambiare dei dati. Io li avvicino, per esempio, alla porta e questa si apre, no? Tipicamente in albergo, esatto. Oppure al tornello della metropolitana e questa scatta senza neanche bisogno di un contatto fisico. Esatto. Quindi questo anello parla con questi NFC e parla però anche con qualcos'altro, no? Fa un po' da intermediario. Sì, fa da intermediario con un'applicazione che appunto mi permette di, mentre sto toccando l'opera, sto toccando la testa che non c'è, della Nickel, della giovane della alata, di poter sapere perché ha perso la testa. Perché mi basterà avere uno smartphone oppure un'audioguida che viene fornita all'interno del museo per ascoltare quello che sto veramente toccando. Ad ogni sensore corrisponderà un contenuto audio che verrà fruito direttamente dall'utente. Ecco, quindi chi frequenta un minimo i musei sa che spesso ci sono anche dei modellini tridimensionali o braido in basso rilievo, diciamo, delle opere, anche dei quadri e così via, e uno può toccare i vari punti e ricevere un non vedente informazioni su quel dettaglio, per esempio, no? È un po' questo. Esattamente. Però questa sembra una roba, come dire, che può essere interessante anche per chi ci vede benissimo, cioè avere la possibilità di toccare una mappa, diciamo, di un oggetto e ricevere informazioni. Esatto, infatti abbiamo collegato oltre ai dati audio anche un'applicazione per fruire dei contenuti video, quindi potrà essere una realtà aumentata, diciamo, utilizzando non solo la vista, non solo l'udito, ma anche il tatto. Io penso per esempio alla mappa della metropolitana, quella che trovi scendendo in metropolitana. È vero che ormai ci sono gli schermi touch e tutto, ma in una serie di situazioni senz'altro può essere più interessante ricorrere a quest'altra alternativa. Però c'è anche la possibilità proprio di addestrare un po' il tatto, forse, no? Che è un senso che noi tendiamo a dimenticare, soprattutto in tempi di Ebola, mi viene da dire. Ma... Esattamente, sì, diciamo che il nostro obiettivo è quello di non creare il museo per non vedenti, ma di permettere anche al non vedente di entrare in un museo come tutti noi e di poter vedere di fronte l'opera originale la sua replica e di poterla toccare. Pensiamo poi ai bambini che hanno, insomma, sono sempre tentati a toccare le cose e che possono entrare al museo e veramente utilizzare il tatto come strumento di fruizione dell'arte. Ma anche per tutti noi, insomma, ci sono moltissimi strumenti che sono nati per risolvere in qualche modo una disabilità, pensiamo alla cannuccia per bere o al pelapatate, che poi sono diventati oggetti d'uso quotidiano per tutti noi. Ecco, e tra l'altro sono quei casi in cui la tecnologia riesce a offrire un tipo di integrazione alta, no? Esattamente. Che non contrassegna le differenze, esatto. Ma invece mette appunto strumenti for all, come si dice oggi, veramente per tutti. Per tutti, sì. Ecco, a che punto siete dello sviluppo di questa idea? Allora, abbiamo lanciato la domanda di brevetto quest'anno e qualche mese fa. quindi stiamo aspettando il responso. Nel frattempo abbiamo dei contatti con dei musei in Italia e anche all'estero, in particolare in America, per attrezzare i primi musei con tutte quelle repliche delle opere d'arte. Insomma. Qualche museo italiano in cui partirà la sperimentazione? Tanto per cominciare l'archeologico di Venezia, il Museo Archeologico di Venezia, il MART di Rovereto, poi c'è il Muse, poi ne abbiamo molti altri che ancora siamo in fase di contrattazione, però ben presto avremo delle novità. Va bene, grazie Serena Ruffato. Bene, molte grazie a voi, a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.